Intesa San Paolo, Official Global Banking Partner di Expo Milano 2015. Vi presenta. America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero, clamorosa battuta d'arresto per gli accordi commerciali internazionali TTP, TTIP, che dovevano aprire le barriere commerciali sul Pacifico e sull'Atlantico. Cosa è successo? Una violentissima battaglia politica all'interno del Partito Democratico fra coloro che sono schierati sulla sinistra e Barack Obama, che è anche lui di sinistra e progressista, ma in questo caso si trovava a difendere quella che è stata un'iniziativa fondamentale, chiave della sua amministrazione. Ecco, questa battaglia ha portato ieri a un voto negativo al Senato su una cosa tecnica, e cioè sull'apertura del dibattito per la concessione dell'autorità negoziale speciale a Barack Obama, la cosiddetta TPA. A questo punto, cosa succederà? Il presidente potrebbe essere costretto a introdurre delle modifiche nelle bozze di accordo per accontentare la sinistra del suo partito, ma questi cambiamenti potrebbero minare alla base la credibilità degli accordi stessi agli occhi delle controparti, del Giappone, della Malesia. Si tratta, secondo me, di una grave crisi politica, forse della più grave crisi politica tra un presidente democratico e la sua base del partito da molti anni a questa parte, sicuramente durante gli anni dell'amministrazione Obama. The president says that he wants the American people to judge this deal based on the facts, but to do that he's got to make the deal public. Otherwise the American people can't judge it on the facts. You won't put the facts out there. My view is when the process is rigged, then the outcome's likely to be rigged. Ecco, il simbolo di questa resistenza a Barack Obama, di questa resistenza dell'ala sinistra del partito, è Elizabeth Warren, e diventa un simbolo sotto molti punti di vista, intanto perché ha annunciato pubblicamente più volte di essere radicalmente contraria alla chiusura di un accordo per l'apertura dei commerci con gli 11 paesi del Pacifico che partecipavano a questo negoziato. Ma poi perché? Sul piano simbolico, Elizabeth Warren è una creatura di Barack Obama. È stato lo stesso presidente americano che la lanciò nell'arena politica nazionale quando la incaricò subito dopo la crisi finanziaria del 2007-2009, la incaricò di scrivere un documento per la preparazione, per la creazione di una nuova agenzia per la protezione dei consumatori. Welcome back to Harbaugh. It's a shootout on the left between President Obama and Senator Elizabeth Warren, and it's personal. The stakes are massive in economic terms. This is a fight over the president's second term big goal, the enormous 12-nation trade deal called the Trans-Pacific Partnership. Ecco, quando è uscita la notizia nel primissimo pomeriggio di ieri, verso le 3 del pomeriggio, ha dominato completamente le dirette televisive. Vediamo da un punto di vista tecnico. Il voto si è concluso con 52 voti a favore, 45 voti contrari. Se ci fossero stati 60 voti, il dibattito si poteva aprire e si poteva poi andare a un voto con una maggioranza semplice, e invece questo non sarà più possibile. Io non credo che la partita sia chiusa, ma certamente diventa una partita più difficile. Vediamo che cosa chiedono i democratici. Intanto chiedono che ci sia un'assistenza per i lavoratori svantaggiati dall'accordo, e qui ci sono vari punti, per esempio per quei lavoratori che hanno anche dei figli e debbono ottenere un compenso nel momento in cui, come succederà in effetti, alcune aziende saranno costrette alla chiusura o comunque a licenziare una parte del proprio personale perché non potranno far fronte alla concorrenza che arriva dall'estero. Vi faccio un esempio: dal Vietnam c'erano importazioni di scarpe piuttosto importanti, anzi la stragrande maggioranza delle scarpe della Nike, per esempio, è fatta in Vietnam, milioni e milioni di scarpe. È rimasta in America soltanto una fabbrica di scarpe, la New Balance, e dunque questa fabbrica manteneva dei posti di lavoro negli Stati Uniti, ma poteva contare su una barriera tariffaria del 20% sulle importazioni di scarpe. È chiaro che se questa barriera cade, per la New Balance magari sarà più difficile andare avanti. Vi ho portato questo esempio perché Barack Obama appena la settimana scorsa era andato proprio ai quartieri generali della Nike per appoggiare cambiare l'opinione a favore del suo accordo. E perché? Perché la Nike ha detto: se questo accordo passerà, e noi occuperemo, daremo lavoro a altre 10.000 persone negli Stati Uniti. Ma l'altra faccia della medaglia è che forse la New Balance potrebbe essere costretta a chiudere, e Barack Obama ha spiegato da un punto di vista teorico che è inevitabile che le economie di scala abbiano un loro impatto e che ci sia una ristrutturazione economica all'interno di un paese con una divisione del lavoro. E dunque, se l'America non è in grado di produrre scarpe, che faccia altre cose con maggiore valore aggiunto, e le scarpe le farà qualcun altro. Ma questo naturalmente non piace alla sinistra, non piace ai sindacati, non piace ai democratici. Ci vogliono, questo è il secondo punto, maggiori protezioni per le condizioni di lavoro, un impegno maggiore a combattere la manipolazione della valuta e un programma di aiuti all'Africa subsahariana. Ecco, se questi quattro punti saranno accettati, 10 democratici saranno pronti a passare dall'altra parte, dunque ci sarà la maggioranza e il cosiddetto fast track, perché ieri si votava su questo, si votava sulla possibilità che il Congresso concedesse al presidente americano un'autorità negoziale speciale che gli consentiva di chiudere un accordo con le controparti e di portare questo accordo per una votazione sì o no al Congresso senza che ci fossero possibilità di emendamenti. Nemmani, Coco, Washington DC, Obama, dai Torio, to, Kaidanshi. Ecco, anche se non vedo dei problemi gravissimi per alcuni dei punti, aiutare i lavoratori americani e così via, ce n'è uno molto centrale, che è questo della manipolazione delle valute. Avete sentito il primo ministro giapponese Abe, ha aiutato il primo ministro giapponese Barack Obama quando è venuto a Washington una decina di giorni fa, è andato a parlare in Congresso e ha chiesto al Congresso di dare al presidente il fast track e che il Giappone avrebbe fatto la sua parte e si sarebbe trovato in tempi rapidi un accordo. Però il Giappone è proprio contrario a questa, regola possibile di penalizzare chi è sospettato di manipolare la valuta. Qual è il problema? È che se qualcuno comincia a indebolire la propria valuta per cercare di esportare a condizioni più favorevoli, ecco che qui c'è il trucco e la cosa non funziona. Dunque, in qualche modo è legittimo che i democratici vogliano proteggersi da questo rischio. Si dovrà trovare, secondo me, il linguaggio giusto, perché la partita è troppo importante per essere abbandonata, e devo dire che secondo me alla fine si riuscirà a trovare il compromesso giusto, perché ne va non soltanto dell'economia americana ma del ruolo di leadership che gli Stati Uniti, spesso in crisi dal punto di vista internazionale, si trovano a giocare sullo scacchiere mondiale. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Abbiamo parlato di questo confronto politico, un confronto politico che poi troverà un suo rimbalzo anche nelle elezioni americane. E dunque vi propongo dei The Shazman Pop Band degli anni 90, Super Tuesday. Somebody needs to set you down. Tell you how things is. You're living on the dark side of what is. Da New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. Intesa San Paolo, official global banking partner di Expo Milano 2015. Vi ha presentato America 24.